Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. I rifiuti elettronici e meccatronici sono in costante aumento per il semplice fatto che la presenza di questo tipo di dispositivi sta diventando ubiqua, stanno entrando un po' in tutti i settori, e le tecniche per produrre, per costruire questi dispositivi sono ormai raffinatissime e continuano ad evolvere a grande velocità, seguendo logiche di efficienza ed efficacia che invece sono del tutto assenti, o quasi, insomma, quando si parla della gestione di tali prodotti a fine ciclo vita. Soprattutto questo per via della carenza di tecnologie e sistemi integrati ad alto contenuto di automazione e di flessibilità che ne abilitino il trattamento in condizioni di economicità. Insomma, queste cose vanno smontate, bisogna recuperare i materiali, ma bisogna farlo a basso costo. Per contribuire al progresso in questo settore, Litia, cioè l'Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha realizzato un impianto pilota a Milano integrato per la gestione del fine ciclo di vita di prodotti meccatronici. È il primo impianto del suo genere in Europa e ne parliamo con Tullio Tolio, professore di tecnologie e sistemi di lavorazione del Politecnico di Milano e direttore dell'ITIA. Buonasera Tolio. Buonasera. Senta, allora, il tema è, diciamo, smontare in modo efficiente apparati meccatronici di vario genere. Intanto, quali sono i problemi che si incontrano con questo tipo, diciamo, di rifiuti? Beh, bisogna immaginare di non avere una costanza del prodotto, ma di avere a che fare con prodotti che sono singolarmente tutti diversi tra di loro, ma anche dentro lo stesso tipo di prodotto. Certo. Avrò una variabilità molto alta a seconda di come è stato usato e delle per esempio, per esempio, faccia un esempio. Beh, un prodotto che per esempio è stato danneggiato durante l'uso, quando arriva alla fase di deproduzione, probabilmente alcune funzioni che non sono più recuperabili. Ecco, perché attenzione, qui non parliamo solo di recuperare le materie prime, no? Che è quello che si fa, non so, con la plastica o col vetro. Parliamo anche di una possibilità diversa, quella proprio di riutilizzare addirittura. Sì, cioè il concetto fondamentale è cercare di riutilizzare le funzioni del prodotto, okay, il più possibile, perché è lì dove sta la maggior parte del valore del prodotto. Anche qui ovviamente, un esempio. Se io prendo appunto un componente meccatronico dell'auto, per esempio prendiamo uno starter, un alternatore, un freno, ecco, questi componenti nel momento in cui possono essere deprodotti e poi successivamente rimontati, possono di nuovo fornire la funzione originale, che ha un valore molto molto più grande dei materiali che di sono recupero. In esso. Certo, per esempio, non so, visto che l'obsolescenza molto rapida nel settore dei dispositivi elettronici, non so, il chip che fa funzionare lo smartphone che ho in tasca tra qualche anno sarà obsoleto, magari potrebbe essere utilizzato in un sensore, in un altro apparato elettronico che ha bisogno di meno potenza di calcolo. Benissimo, allora a questo punto in che modo avete cercato di rispondere a questa necessità nell'impianto pilota di Milano? Che operazioni avvengono lì, come si svolgono i lavori? Ma prendiamo un caso magari semplice come una centralina auto. Allora, se io voglio accedere alla parte elettronica, per esempio, di questo prodotto, devo prima di tutto smontare l'involucro. Certo. Allora, il nostro approccio è quello di avere una collaborazione uomo-robot, okay, per fare questo, perché totalmente automatizzato avrebbe un costo magari troppo elevato di investimento, totalmente manuale ha un costo operativo di gestione troppo elevato, certo. E quindi ovviamente la soluzione che ci sembra più adatta è quella di avere una collaborazione uomo-robot. Quindi la prima cella dell'impianto è una cella in cui uomo e robot lavorano insieme per smontare, ecco, la componente quindi, meccanica del prodotto. E quindi qui che parte fa l'uomo e che parte fa il robot in questo caso? Il robot, diciamo, deve seguire, deve supportare l'uomo nelle operazioni più dove appunto la capacità e la flessibilità dell'uomo sono indispensabili. Per cui il robot, per esempio, può supportare il pezzo, può orientare il pezzo nella direzione dove deve fare l'operazione, può fornire gli attrezzi necessari per fare l'operazione, può anche fare delle operazioni più semplici, partecipare, che possono essere facilmente automatizzate. Chiaramente dopo questa fase dall'involucro posso estrarre la parte di elettronica, sarà chiaramente un circuito su cui sono montati i vari componenti. Ovviamente per arrivare a capire quali componenti bisogna smontare bisogna prima fare un test, certo. Quindi è necessario avere una fase di testing, quindi nell'impianto pilota ci sono delle macchine automatiche di testing che individuano quali componenti sono funzionanti e quali invece vanno sostituiti. Questo nell'ottica della riparazione, ma un altro scenario potrebbe essere quello di riutilizzare alcuni componenti, certo, in altre filiere, come si diceva prima. Oppure arrivare veramente alla dismissione, no? Che è comunque uno scenario possibile. Sì. Questo ci porta alla terza cella dell'impianto, che è una cella appunto per il recupero del materiale, dove ci sono attività sostanzialmente di shredding, cioè di frantumazione della scheda, separazione, e poi così di separazione via. Dei materiali con diverse tecnologie. Ecco, un aspetto importante però dell'impianto è che è tutto integrato e questo lo fa diventare un vero e proprio impianto di deproduzione. Va bene, grazie Tolio, ma continuiamo a parlare di defabbricazione, sarà uno dei grandi temi del futuro. Grazie a lei, buonasera a tutti. Va bene, ci fermiamo qui, allora appuntamento a domani.